si vive a Tione? Io non vivo a Tione, vivo a Comano Terme, però direi che si vive bene a Tione. Infatti abbiamo la percezione che in tanti scelgano di venire a vivere qua, quindi direi che si vive bene. Anche perché comunque ci sono molti servizi rispetto magari ai paesi dei dintorni che sono più piccolini e hanno sicuramente meno da offrire magari a livello proprio di servizi e di strutture. Secondo lei gli adulti come vedono i giovani? Bene, dunque, gli adulti e i giovani vedono il futuro, quindi credo che vedano, come dire, qualcuno a cui passare le proprie esperienze, dare consigli e nello stesso tempo vedono coloro che poi un domani si occuperanno. E secondo lei, i giovani come vedono gli adulti? Ebbene,